Professor Colombato, una prima valutazione da parte sua. 10 anni dopo, come siamo messi? Cioè ci sono più poveri, meno poveri di 10 anni fa? Ma se andiamo a vedere in termini di povertà estrema, abbiamo fatto dei progressi. L'MDG, cioè questo Millennium Development Goals, in realtà avevano un po' barato, nel senso che quando si erano riuniti nel 2000 avevano fissato degli obiettivi di miglioramento per l'intervallo 1990-2015, dando quindi consolidati 10 anni, cioè dal 90 al 2000, quello che era stato fatto. Quindi quando si dice dimezzamento in 15 anni, in realtà è sbagliato, perché è in 25 anni, cioè dal 90 al 2015. Un quarto di secolo. Qualche progresso è stato fatto, per la verità. Se prendiamo per esempio quello a cui faceva riferimento lei, cioè coloro che vivono con meno di $1.25 al giorno, i dati ci dicono che il numero di persone in questa condizione in questi 20 anni è sceso da 1,8 miliardi a 1,4 miliardi.